You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che parla di identità e cucina per raccontare l'Italia che cambia anche grazie alla presenza di italiani di origine straniera. Sempre più nel nostro paese ci sono persone che hanno radici altrove, come noi diciamo, ma che sono italiani, così come è italiana questa scrittrice che è però nata a Mogadiscio, Kaha Mohamed Aden. Buonasera. Buonasera, grazie di avermi invitato. Grazie per essere con noi questa sera. Il suo libro per Nottetempo è Fra intendimenti, e non sono pochi fra intendimenti fra italiani e stranieri, no? È per questo che hai deciso di intitolarlo così? Sì, per questo e per mille altri modi, perché purtroppo i fraintendimenti non è soltanto fra i somali e italiani, ma anche all'interno tra i somali. E quando ho cominciato, quello che mi ha portato a scrivere a dare questo titolo è questa idea di escludere l'incontro con l'altro definitivamente per sempre. Quando è stato cacciato il dittatore in Somalia, il dittatore intendo mettere in ginocchio l'economia di un paese, distruggere le prospettive, insomma, la vera e propria dittatura, poi arrestare tutti i politici contro, compreso mio padre che era un oppositore suo, che si è fatto 6 anni di isolamento. E quando è stato cacciato pensavo di fare una festa, ero contenta, ma invece quelli che hanno cacciato hanno instaurato un regime, un'idea dell'escludere l'altro proprio perché appartiene a un altro clan o qualcosa del genere. E quindi la città di Mogadiscio, la mia città natale, che era una città multidimensione, con tutti i clan somali presenti, con minoranze anche italiane e anche minoranze indiane, arabe, adesso è totalmente una città monodimensionale e monoclanica, indovinate voi che se ne hanno fatto gli altri. E quindi questo motivo è anche il motivo di quando stavo qua, tutte le complicanze che possono derivare dal fatto di essere stranieri, essere cittadini, essere stranieri, essere schiacciati su per esempio cose, documenti su questioni legate a cose burocratiche e magari mettere in repentaglio la vita di una persona. Tutte queste incomprensioni sono legate a non voler incontrare l'altro. Questo mi interessava e mi interessava soprattutto stimolare chi ha avuto la bontà di leggere o ascoltare quello che scrivo, quello che dico, stimolare per poter costruire un percorso, come dire, inclusivo e una cittadinanza civile. In questi racconti, infatti, della convivenza, cioè, infatti molte cose dei racconti sono presenti anche intendimenti fra, non soltanto fra intendimenti. Sì, ma ci sono momenti anche di chiacchiere, di rapporti fra amiche, poi c'è ovviamente l'ufficio immigrazione, la burocrazia, i rapporti con gli italiani, i pregiudizi, ma anche i bambini soldato, i sapori, le spezie, gli odori somali, le storie, le leggende, no? C'è molto in questi racconti, c'è anche molta ironia. Sì, l'ironia come un qualcosa che ci guida altrove, non soltanto cioè, fissarci con questi scontri legati alla biologia e al sangue, ma anche trovare altre strade e senza essere, l'ironia serve anche un modo per autovalorizzarsi, darsi un tono simpatico, un tono di anche un tono che crede alla prospettiva di un futuro diverso per tutti. Anche per parlare in maniera leggera di cose molto pesanti. Questo è anche ovviamente, come ogni volta, un invito a cena. Ci sediamo a tavola con lei che ci ha portato qualcosa, no? Sì, io sì, non essendo brava a cucinare, ho portato una bevanda, il tè, e con le caratteristiche che lo fanno con quelli i somali, che è pieno di spezie, che anche qua volevo segnalare un'apertura perché che è legato anche alla posizione geografica che la Somalia si è trovata da sempre, cioè abbiamo sopra Mar Rosso e a fianco siamo a fianco abbiamo a est Oceano Indiano, quindi tutto il l'apertura col mondo e tutto il commercio delle spezie. Malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika ingekuwa wa maliwe ingekuwa. Insomma, un tè somalo per parlare di Mogadiscio e per parlare anche della nostalgia per quel paese. Immagino che ne abbia. Sì, ho nostalgia anche per ricordare le mie nonne. Infatti il racconto che apre questo libro si chiama Autoritratto, dove mi do una discendenza matriarcale, dove ci sono tre nonne, dove c'è una nonna che fa antidoto, perché non è una mia nonna biologica, sono tre nonne, due sono biologiche, una no. E quindi come antidoto di adottarsi, di farsi famiglia alle persone perché si è simpatica, perché si condivide un'idea, perché si beve un tè insieme, un tè speziato però, un tè che dice che è un segno dell'apertura perché contiene tante spezie, tipo il cardamomo, la cannella, il chiodo di garofano, lo zenzero, e quindi che tra l'altro si trovava in Somalia, ma è replicabile anche in Italia, che lo trovi nei negozi indiani, quelli cinesi. Mi porta per esempio alcuni cardamomi, mi porta una mia nipote che abita a Marsiglia, che lo compra dagli arabi, quindi per dire che è un tè che ci dà la possibilità di aprire con curiosità e ospitalità, ovviamente, perché il tè richiama di bere con qualcuno. Sì, in compagnia. Com'è arrivata in Italia lei? Io sono arrivata negli anni, metà anni 80, per andare all'università per studiare, però con il cuore distrutto perché mio padre era in prigione e non volevo più stare in quel paese, che era il mio paese, la Somalia, e volevo andare altrove che si parla di altre cose, si immagina altre questione e non nella chiusura della dittatura che ci trovavamo in Somalia in quel periodo. Quindi sono venuta per studiare qua e mi sono iscritta alla facoltà di economia e così è andata. di economia. Suo padre, lo diceva, è stato in carcere, era un chirurgo, ma anche un politico, uno scrittore, un prigioniero politico, una persona anche appunto di letteratura. Ha scritto questo libro, il cui titolo è affascinante: La Somalia non è un'isola dei Caraibi. Perché questo titolo? Beh, per credo che si rivolga al pregiudizio, no, che noi abbiamo verso l'Africa. Sì. Anche sì, positivo alle volte. Sì, sì, sì, anche positivo, perché il pregiudizio non è sempre negativo, può essere anche uno positivo che comunque non racconta, non dà all'altro la possibilità di partecipare e di definire le cose insieme, più che altro. Sa, chi ha pregiudizio sa già tutto, quindi non, che siano positivi che negativi, non, per me non vanno bene. E soprattutto La Somalia non è un'isola dei Caraibi era anche questo silenzio che ha avuto, che il mondo ha dato nei confronti della Somalia, che quando papà scriveva questo libro era veramente in difficoltà, perché c'era una guerra clanica che distruggeva non soltanto le persone, non soltanto le opere che gli umani hanno, insomma, le hanno fatto, ma anche la memoria, quindi il legame con gli altri paesi, quindi era come dire la Somalia non è un'isola, esiste, ha avuto sempre una relazione da tanto tempo con l'Italia, forse è il caso di guardarlo nella sua profondità e nelle sue difficoltà e magari dare una mano, insomma. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Torniamo su questa musica conosciuta a livello internazionale, ma che ci riporta alle atmosfere di Mogadiscio in Somalia, per parlare con una scrittrice italiana di origini somale, Kaha Mohamed Aden, con cui stiamo parlando e stiamo raccontando questo suo libro Fra intendimenti per nottetempo. Ho finito i bignè, naturalmente quelli al cioccolato, quanta bontà, ho vissuto per ben 19 anni senza che nessuno mi parlasse di questa delizia. È l'incipit di uno dei racconti. A proposito di cucina, visto che la nostra trasmissione, insomma, si svolge sempre intorno a una tavola, di uno dei racconti, insomma, l'Italia anche come scoperta di cibi, di altri paesi, di gusti, di profumi di un altro paese. L'Italia però anche, come nell'ultimo racconto intitolato Nadia, come l'esperienza di una giovane ragazza somala che lavora come colf per una famiglia italiana. Qual è l'Italia, Kaha, che lei ha scoperto quando è arrivata? Beh, l'Italia che io ho scoperto quando sono arrivata era un'Italia che, a proposito del titolo del Somalia non è un'isola dei Caraibi, che non era, non, cioè, almeno quelli che io ho incontrato, la mia facoltà di cui non si sapeva assolutamente niente, l'esistenza di questo paese che ha avuto una relazione lunga con l'Italia, a volte brutta, a volte bella, ma insomma una cosa che non esisteva, sembrava che fosse un'isola dei Caraibi, invece è un paese dell'Africa orientale che ha avuto una storia con la... Quindi questa non conoscenza, che devo dire che inizialmente mi faceva anche piacere, perché provenivo da un luogo dove tutti si conoscevano, tutti si spiavano sotto una dittatura, mio padre era in prigione, quindi venire a questo posto dove nessuno sa niente del mio paese mi sembrava di rinascere da capo, quindi era quasi come una cosa positiva, però nel tempo ho capito che questa non era una questione bella, perché mi sono trovata in una situazione, io parlo per me, ma in realtà molti somali gli è capitato più o meno la stessa cosa, in una situazione di una guerra civile, non avere uno Stato dove l'Italia non riconosceva cittadine sono neanche di essere apolidi, per esempio, formalmente, quindi non essere di fatto apolidi non riconosciuti dallo Stato italiano era un po' complicato dal punto di vista formale. Nonostante, però, come lei diceva, i rapporti che l'Italia ha sempre avuto con la Somalia, no? Esatto. Però devo dire che il rapporto che ho avuto con, cioè, l'Italia, ma ci sono anche gli italiani, che è molto interessante sottolineare, perché ho trovato tanti italiani che mi sono stati vicini, che alcuni, lo racconto, sono diventati fratelli e sorelle mie, ci siamo adottati per scavalcare anche questi confini che si mette fra le persone attraverso la questione nazionale, la questione clanica, insomma queste bandiere che si mette in mezzo. Invece ho trovato tanti italiani, che belle persone. Che come è riuscita a diventare praticamente? Lei fa la mediatrice culturale, è anche una documentarista, tra poco sentiremo uno stralcio dal suo documentario La Quarta Via, autrice teatrale. Come è diventata scrittrice? Come ha presentato, ha proposto questi racconti all'editore? Ma questi racconti sono usciti per prima delle riviste, e poi li ho mandato, e nottetempo sono stati veramente, come dire, aperti, quando gliel'ho mandato mi hanno risposto dopo qualche mese e mi hanno detto che sarebbe interessante discuterne, poi abbiamo discusso e poi mi hanno pubblicato. E adesso anche questa nuova esperienza con il documentario, no? Che è stato presentato pochi giorni fa a Milano. Sentiamone uno stralcio. È molto difficile a me, per me, raccontare Mogadiscio. E io me la ricordo com'era, me la ricordo le strade, me la ricordo i profumi, mi ricordo tutto, però a modo mio, mi ricordo a modo mio. E adesso che ho l'opportunità di raccontarla, e come farla riesistere, come determinarla, visto che l'hanno distrutta totalmente. Questo documentario, come mai ha deciso di raccontarsi attraverso il documentario? Beh, prima di tutto questo documentario, il racconto che faccio nel documentario nasce come un racconto orale, che ha lo stesso titolo, che si chiamava La Quarta Via, che tra l'altro è stato presentato anche in paesi, alcuni paesi africani, tipo l'Università a Nairobi, si chiamava il racconto orale La Quarta Via, che io volevo sottolineare come, dividendo la Mogadiscio in quattro vie, dove ogni via corrispondeva a un colore e un modo di vedere il mondo che i somali avevano. E la quarta via è quella che non ha voluto convivere con le altre storie che ha distrutto, rappresentato dalla guerra incivile. E qua, però era tutto orale, proprio perché volevo che gli altri, quelli che vedevano, che ascoltavano questo racconto, se ne appropriassero e lo riproducessero, come è nella tradizione orale, a modo loro. E mentre raccontavo questo il racconto orale in giro per l'Italia, sono arrivati da me questo gruppo di ricercatori e documentaristi e mi hanno chiesto perché non scrivesse, e io ho detto che voglio che gli altri lo riraccontano, Mogadiscio, e non lasciare l'ultima parola al signore della guerra. Allora mi hanno detto: che ne dice se facciamo un documentario? E così è partito, dove io ho partecipato alla scrittura della sceneggiatura, e così è nato il documentario, che porta lo stesso titolo, e spero che non finisca qua, che altri lo riproducono, lo ricreano Mogadiscio con altri punti di vista. Comunque non lasciare, il mio obiettivo è non lasciare la ricostruzione della città e la memoria degli somali soltanto ai signori della guerra, che si stanno dando da fare adesso a rimettere il passato in modo, come dire, comodo a loro. È cambiata Mogadiscio? Lei c'è stata di recente? No, è cambiata totalmente, perché è stata totalmente distrutta. Adesso stanno ricostruendo, ma non solo ricostruiscono la città, ma ricostruiscono anche cosa pensiamo che sia successo. E io voglio che gli italiani e tutti quelli che mi vogliono bene, quelli che hanno la voglia di guardare le mie cose, diventano attivi in questo, questo luogo che solo i signori della guerra sembrano attori, invece voglio che tutti si attivino e se ne appropriano, fanno anche la loro ricerca, che cosa era Mogadiscio, cosa sta per diventare Mogadiscio. Allora, quindi, proprio per vedere cosa sta diventando Mogadiscio, vi faccio sentire un passaggio di un documentario Rai dell'agosto 2013, quindi quasi un anno fa, abbastanza recente. Si intitolava, e questo è già interessante, Le ragazze di Mogadiscio vanno al mare. Sentiamo. Benvenuti a Mogadiscio. In Somalia non si tengono elezioni dal 1969. Poi 22 anni di dittatura, seguiti da 20 anni di guerra civile, attraversati da carestie e siccità di dimensioni bibliche, hanno inferto ferite insanabili. Nell'agosto del 2011 Mogadiscio fu liberata dagli Shabab, gli integralisti islamici vicini ad Al-Qaeda, che continuano a controllare le regioni centrali e meridionali del paese. E così, da 2 anni, i somali coltivano un sogno, quello di un paese finalmente pacificato. Il sindaco è ottimista. 3 grandi cambiamenti hanno investito la città. Il primo è di tipo psicologico. Negli ultimi 22 anni la popolazione è stata coinvolta totalmente in un conflitto che sembrava senza fine. Ora invece si percepisce la possibilità di trasformazione, perché la pace sta aprendo le porte alla ricostruzione, che è la seconda innovazione. Infine, la situazione economica sta migliorando grazie all'afflusso di capitali. Avremo bisogno della presenza italiana in questi processi, perché qui tutto parla di voi, a cominciare dall'architettura e dai nomi dei luoghi. Cinema Centrale, Bar 900, Croce del Sud. Questo è il sindaco di Mogadiscio. Caha, che cosa ne pensa di questo cambiamento in Somalia, raccontato così dal sindaco, dalla voce del collega della RAI? Le ragazze di Mogadiscio vanno al mare, sta cambiando qualcosa? Beh, sì, sicuramente sì, sta cambiando qualcosa, e meno male che sta cambiando qualcosa, quindi che i somali cominciano a pensarsi che possono ricominciare a vedersi. Però bisogna anche tener conto che Mogadiscio era una città, come avevo detto prima, complessa, che aveva molte dimensioni, e dove vivevano tutti i clan somali, anche delle minoranze indiane, arabe, anche italiane, che adesso invece è una città monoclanica. C'è stata una vera polizia clanica prima del Ruanda e anche della Jugoslavia. Questa anche questa è c'è da chiedersi. E per la pacificazione, come sappiamo tutti, ha bisogno di riconciliazione e riconoscimento, come ci hanno insegnato i sudafricani, che Nelson Mandela, e la ringrazio di aver messo Maria Micheva come filo conduttore, come musicale in questa trasmissione. Senta, per capire anche, visto che spesso, come lei ricordava, noi sappiamo poco della Somalia, per capire che cosa è successo, ci racconta cosa è accaduto in quella notte del 1982, quando insomma a casa sua è successo qualcosa di molto brutto, no? Sì, sono entrate, cioè per me è veramente difficile, tuttora, che è passato nell'82, è passato tantissimi anni, e non mi rende veramente difficile a parlarne. Comunque sono entrati i berretti rossi, che sono le guardie militari del dittatore di Siad Barre, per spaventarsi, perché le dittature, sappiamo, vivono del terrore, e trovare dei documenti che allora non lo sapevamo cosa cercare, perché, e arrestare anche mio padre. Anche in realtà mio padre l'hanno già arrestato, perché era fuori casa, e l'hanno arrestato da fuori casa. Però quando sono entrati a trovare prove, creare prove, E hanno ammazzato il nostro cane, avevamo un cane che in casa che non gli faceva, perché loro sono entrati con la forza e lui non era d'accordo con loro, questa loro nonchalance di entrare a casa nostra, e l'hanno ammazzato, l'hanno sparato, non l'hanno ammazzato, l'hanno sparato. E io ero lì attonita. Quanti anni aveva? Io avevo 16 anni. E quando ho cercato di avvicinarmi al cane, questo qua mi ha dato la notizia che mio padre, cioè devo avere pena per mio padre e non per questo cane, e quindi con gusto vero e proprio forte. La cosa che mi mette ancora più dolore è il fatto che nel 91, quando è finita la guerra, perché poi mio padre è stato arrestato, ha fatto 6 anni di isolamento, poi un anno di arresti domiciliari, quando è finito tutto, è stato cacciato il dittatore, e noi, io, la mia famiglia e io, siamo diventati gente del dittatore, perché per caso siamo nati, cioè perché apparteniamo allo stesso clan del dittatore, e quelli che hanno cacciato il dittatore sono riusciti a spostare l'odio contro la dittatura e il progetto della dittatura in odio clanico. E quindi c'è stato veramente una caccia al Darod nella città di Mogadiscio. Io non potevo più tornare neanche, per fortuna ero fuori quando è iniziata nel 91 la guerra civile. Grazie a Kaha Mohamed Aden, il suo libro Fraintendimenti per Notte Tempo. La puntata termina qui, buona serata. Grazie, buona serata. Ringrazio anche voi per l'ascolto, in regia Peter Bescapè, mi trovate anche su Twitter, @Valfurla, e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buona serata a tutti, appuntamento a sabato prossimo. You've got to give a little, that's the glory of love.